Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Alle spalle dell'Inter c'è chi le occasioni le sa cogliere, come la Roma, al massimo livello, e chi invece è così stremato da arrendersi, ma arrendersi a ripetizione proprio sul più bello, come il Milan. Dopo l'ultima settimana di stagione da 9 punti in palio, perché si è giocato domenica, mercoledì, domenica, quindi dopo l'ultimo di questi 4 cicli stagionali da 9 punti a settimana, il Milan ne ha raccolti 2 su 9, avendo 3 partite abbordabili, di cui 2 in casa. L'Inter ne ha presi 4, sempre su 9, la Roma ha fatto l'unplaying. E così la classifica continua a premiare per il momento l'Inter, che ha conservato un punto di vantaggio sulla Roma, ma già nel frattempo ha perso una tu che potrebbe essere da non sottovalutare in prospettiva, perché grazie alla vittoria di sabato, in caso di arrivo a pari punti, il titolo andrebbe proprio alla Roma, perché non sono previsti spareggi e l'unico parametro contemplato invece è quello, come già nelle ultime stagioni, del confronto diretto. Inter-Roma era finito 1-1 all'andata, quindi 2-1 per la Roma ritorno. Pensate a cosa vorrebbe dire in caso di arrivo a pari punti, per esempio quel palo a colpo sicuro di Milito al 95esimo. Poi è ovvio che la classifica si è abbastanza evoluta anche negli altri settori di per l'appunto di classifica, grazie a questo triplo turno settimanale, perché il Palermo ha aumentato il suo vantaggio da una parte, perché dall'altra è risalita soprattutto il Napoli e in parte la Juventus. La Sampdoria ieri ha perso un'occasione notevole, e sto parlando della corsa al quarto posto, da cui non è ancora esclusa nemmeno la Fiorentina. Non si è chiarito molto nemmeno in coda, nel senso che sì, la situazione delle due toscane, cioè di Siena e Livorno, è decisamente compromessa, ma l'Atalanta, che tra l'altro il prossimo turno riceve in casa il Siena, l'Atalanta ha 4 punti da Lazio, ma soprattutto da Udinese, mi pare che qualche piccola speranza la possa ancora coltivare, anche se ieri ha perso una grande occasione nel momento più difficile della Juventus, diciamo nella prima metà del secondo tempo. Come sempre al lunedì, perlomeno nel lunedì qua in cui riesco a essere presente, grazie a proposito a Carlo Genta la scorsa settimana per essere balzato dalla panchina, insomma, a sostituire un pesantemente influenzato sottoscritto. Seguiamo la formula abituale del lunedì e dunque rivisitiamo qualcuno dei commenti tra i più significativi di questo fine settimana, in attesa poi delle vostre prenotazioni e dei vostri interventi in diretta. La sintesi di questi mesi di lavoro che hanno portato quasi al ricongiungimento della Roma nei confronti dell'Inter nelle parole di Ranieri. Era una partita importante, delicata, ma non per me, era delicata per tutta Roma, per tutto il nostro popolo, per tutta la gente che ci segue. Abbiamo fatto 5 mesi di sacrifici, di rincorsa, di voler migliorare, dobbiamo continuare così. Abbiamo battuto una squadra stratosferica, una grossa Inter, bisogna fargli i complimenti, però devo fare i complimenti anche ai miei ragazzi, perché non hanno mai smesso di giocare a calcio, hanno sempre cercato di fare gol, e credo che sia stata una partita molto bella, molto interessante. Non ci nascondiamo, però stanno sempre un punto avanti, per cui mancano ancora diverse partite e sarà una bella battaglia di nervi, perché magari i punti si potranno allungare o può darsi che noi passiamo avanti, insomma sarà, adesso comincia il rettilineo finale. Noi stiamo bene fisicamente, i ragazzi ci credono e dobbiamo continuare a giocare così. Il rettilineo finale, che è fatto di 7 sprint a 3, poi perché è ancora in corsa anche il Milan, anche se la sensazione è che lo sia da un punto di vista più formale che sostanziale. Mi pare di poter dire, proprio sulla base delle occasioni che si è perse in questi ultimi giorni. La Roma, adesso comincio a scorrere le statistiche di Franco Piantanida, 2 sono secondo me le più interessanti. La Roma ha conquistato 30 punti nel girone di ritorno fino a qui, sono 12 giornate e in queste 12, nelle stesse partite, cioè nelle stesse 12 giornate dell'andata, ne aveva fatti 15, adesso ne ha fatti 30. Mi sembra che il cambio di passo sia incredibile addirittura. In questo stesso periodo, in queste 12 giornate, l'Inter ne ha persi una quantità non indifferente. Sto cercando il dato. L'Inter ha la peggiore differenza, meno 11, e quindi insomma, essersi fatta recuperare 11 punti dalla Roma, sia pure nonostante questa abbia tenuto una marcia altissima, beh, questo è un dato indubbiamente negativo. L'altra curiosità molto significativa è questa, che l'Inter ha perso 4 partite in campionato e tutte e 4 le ha perse alla vigilia di una partita di Coppa, soprattutto alla vigilia di partite di Coppa pesanti o decisive. L'Inter perse a Genova con la Sampdoria prima del Rubin Kazan in trasferta, perse dalla Juventus prima del ritorno con il Rubin Kazan, perse a Catania recentemente prima della trasferta a Londra col Chelsea e ha riperso adesso a Roma prima della partita interna con il CSKA. A questo proposito, questa partita verrà diretta da Webb. Sono stati comunicati gli arbitri designati per questi quarti di finale. L'inglese Webb dirige a San Siro mercoledì alle 20:45 Inter CSKA Mosca. La stessa sera Arsenal Barcellona viene diretta da Busacca, lo svizzero, mentre per domani c'è Bayern Manchester United con il belga De Blecker e il derby francese Lione Bordeaux arbitrato dal tedesco Brick. Altre voci da ascoltare, per esempio quella di Leonardo. La squadra mi ha fatto bene, non c'è niente da dire alla squadra, credo che fosse mancato quello guizzo finale che in qualche volta siamo anche riusciti a trovare. Abbiamo, specialmente nel secondo tempo, abbiamo sfiorato una vittoria che secondo me ci poteva anche stare. Abbiamo avuto tanti momenti in queste stagioni, momenti belli, momenti di grande gioco, momenti di difficoltà, momenti di crisi, abbiamo avuto un po' di tutto, per quello credo che questa squadra, per la sua maturità, è dimostrato anche oggi, diciamo che quando c'è da cambiare, quando c'è da rendersi disponibile, quando c'è da essere anche umile, correre, sacrificarsi, la squadra c'è. Siamo anche abituati a giocare in un certo modo, che dopo cambi certi giocatori, deve trovare la via dei gol in un modo diverso. Io credo che tante volte qua sia la difficoltà. E non c'è dubbio che di cambi il Milan negli ultimi tempi ne abbia dovuti fare tanti. Ieri sera in modo particolare lo si è visto, perché sarebbe stata, se fosse arrivata, sarebbe stata una vittoria, a parte una vittoria dell'aiutino, ma sarebbe stata una vittoria della volontà, una vittoria strenua, una vittoria da combattimento. Poteva anche arrivare su quella bella incursione di Antonini nel secondo tempo, ma dire che sarebbe stata la risultante di una marcia quale per esempio quella della Roma, no, cioè sarebbe stato un tirare l'anima tra i denti ancora per un altro po', come il Milan ha fatto, come il Milan è stato bravissimo a fare quest'anno in molte occasioni. Un altro dei capitoli di giornate, indubbiamente questo è molto più sgradevole, è quello della, chiamiamola, contestazione di una piccola ma non così piccola parte della tifoseria juventina ieri nei confronti della squadra, sfociata in un tentativo, in quello che insomma si è visto anche documentato dalle immagini, questo brutto episodio che ha coinvolto Zebina. Sentiamo come la inquadra Roberto Bettega. È giusto, non stiamo andando bene, è giusto criticare, è giusto fischiare, è giusto tutto, qualche eccesso soprattutto appunto fuori mi pare un po' esagerato. Il senso più generale, perché Zebi si è sicuramente centrato, o almeno uno degli obiettivi, però sinceramente salendo sul pullman mi sono chiesto se giochevamo in casa o se giochevamo fuori, nel senso che l'atteggiamento non era sicuramente positivo da parte dei tifosi, che torno a dire, io so benissimo che cosa è la Juve, che cosa la Juve deve fare, dovrebbe fare, che cosa spera di fare, che cosa vuole fare, e questo è un momento in cui non ci riusciamo, però credo che mantenere nei limiti giusti della critica, della contestazione, penso che sia doveroso. Insomma, mi pare sia da un pochino di tempo che questa contestazione non è nei limiti giusti, anzi è molto oltre i limiti giusti, ma mi sembra anche che si continuino a prendere provvedimenti. La foto del contestatore di ieri, anzi dell'aggressore di ieri, e persino su tutti i giornali, attendiamo sviluppi di cronaca giudiziaria, almeno se non altro, ma per la curiosità di sapere di sapere se uno che infrange oltretutto una barriera, un cordone di polizia, poi può permettersi di fare di queste prodezze impunemente, oppure se insomma a queste latitudini c'è ancora il concetto, no? L'applicazione del concetto che in linea di massima chi sbaglia paga. Scrive Giancarlo da Cesena: perché nessuno dice che il primo gol della Roma è irregolare? Burdisso si appoggia nettamente con le mani su Cambiasso e Toni era in fuorigioco. Caro Giancarlo, nessuno dice questo perché è una fregnaccia, e quindi tra le tante possibili fregnacce che già un po' si sono sentite, altre penso che tra poco avranno la stura su una delle più belle partite degli ultimi anni, su una sfida giocata con una intensità e un livello anche tecnico, ma soprattutto un livello di emozioni e di dedizione incredibile dal primo al 95esimo minuto, che ci sia, voglio dire, che si possa discutere su non su uno ma su parecchi episodi, questo è oggettivo. Sul fatto che da noi, per l'appunto, che ogni tanto ripassiamo, no? Tenga presente Inter-Chelsea e Chelsea-Inter, sul fatto che da noi si viva di episodi anziché di giudizio complessivo e di respiro, su questo non ci piove. Che però poi degli episodi dobbiamo andare a pigliare le fregnacce, caro Giancarlo, se riusciamo a risparmiarcene è meglio. Ecco, tutto qua. Pino ha chiamato da Torino, buongiorno. Buongiorno, signor Garanzini. Senta, io la chiamo perché mi preme a sottolineare che... Discapito di quello che si dice molto in questi ultimi anni, che il nostro campionato nel bene e nel male si è livellato in alto, nel senso che comunque trovo che il tasso tecnico è molto aumentato, anche perché era impensabile qualche anno fa andare a Palermo, a Napoli, cioè oggi tutte le partite, anche i meno punti che si riprova di vincere, il fatto che comunque oggi si va a Palermo e non si va a Palermo, si vince, o si va a Napoli o a Genova. Cioè, ci sono tutte queste squadre medie, diciamo, chiamiamole medie, appunto quelle che ho citato prima, che si sono alzate a livello tecnico in maniera incredibile, perché comunque tutte esprimono un bel gioco. Quindi io sarei per valutare un po' di più il calcio italiano, perché comunque, ripeto, l'Inter andava in questi campi e tranquillamente riusciva a vincere, oggi diventa difficile per tutti quanti, quindi bisogna anche un attimo dare merito a queste squadre. Io sono un interista, tra l'altro, voglio dire. Io però non sono molto d'accordo con lei, Pino. No, non tanto, direi di no, e direi che il livello non si è particolarmente alzato né in alto né a metà né in basso. Poi ci sono dei momenti di squadre che sono particolarmente significativi dal punto di vista della qualità. Non so, quest'anno mi viene in mente il Bari è una neopromossa che si è salvata con una dozzina di giornate, 10-12 giornate in anticipo, giocando un bel calcio, facendo anche qualità, non so, prima e dopo. Ci sono dei momenti molto belli del Palermo, però se andiamo a vedere i punti che hanno fatto, cioè se il quarto posto di quest'anno è parecchio più basso che non in passato. Lei dice che questo vale perché si fa un po' più fatica comunque, perché il livello medio è cresciuto. Io non sarei molto d'accordo, perché ci sono comunque due o tre materassi, e basta vedere la classifica, in fondo, che non si può dire che innalzino il livello. E per vedere partite davvero divertenti e di qualità, io credo che una certa fatica si continui a fare, ma sono opinioni. Simone da Prato scrive: Bettega ha parlato a lungo, avrebbe dovuto dire semplicemente vergogna e basta. E annunciare che la Juve si costituisce parte civile contro i violenti. Caro Simone, io sottoscrivo al 150-180% la sua frase e il suo concetto. Giuseppe Brescia, buongiorno. Buongiorno. Volevo fare l'analisi della partita di Roma-Inter, no? Adesso, sì. Ecco, dopo che l'1-0... Così è fresca, sì. Dica. No, certo, andiamo sulla... No. Dopo l'1-0, che è una papera colossale di Giulio Cesare, no? Ma nel secondo tempo, dopo che ha pareggiato l'Inter, la Roma si era accorta tutta indietro e non sapevano veramente dove andare. Se non trovavano quel tiro casuale di Taddei che è andato a finire proprio su Toni, non so se saremmo qui a parlare di grande Roma. No, saremmo qui a parlare di un gol con tre in fuorigioco di 3 metri, e quindi meno male che è andata così, secondo me, da un certo punto di vista. Se invece lei vuol dire, giustissimamente, che l'Inter ha avuto una grande reazione e che la Roma ha passato un periodo di grande sofferenza, questo chi ha visto la partita e chi ha occhi per vederle, per vederlo l'ha visto, e come la Roma è stata ancora più brava a parer mio proprio a resistere in quel momento, cioè a ritardare il più possibile il pareggio degli avversari e una volta subitolo ad avere comunque, come dire, a creare i presupposti per quel colpo di fortuna che poi indubbiamente ha avuto. Lei dice un tiro sbagliato da Taddei, e qui di nuovo ripeto, bastano gli occhi per vederlo, però Toni Guarriga ha fatto un grande controllo su quel pallone, perché l'ha stoppato a seguire in una maniera assolutamente perfetta e poi l'ha girato molto bene. Dopodiché questa era una partita che secondo me poteva anche finire con una vittoria dell'Inter, cioè io credo che non ci sarebbe stato nulla da dire sul piano di quello che si è visto in campo, comunque fosse andato a finire, ma proprio perché in questo concetto io credo molto, è più che legittimo anche questo finale, questo esito, e cioè la vittoria della Roma. Giuseppe, grazie, torniamo, andiamo a Milano da Cesare, buongiorno. Buongiorno Garanzini, sentendo l'intervento dell'ascoltatore, bentornato innanzitutto. Grazie. Sentendo l'intervento dell'ascoltatore, appunto, sono pienamente d'accordo con lei quando dice che meno male che è finita così, perché è veramente inconcepibile. Io sono interista, però è inconcepibile come si possa convalidare un gol del genere. Sì, quello mi ha molto sorpreso perché, scusi, non voglio, sì, ormai l'ho interrotta e quindi mi dispiace, le ridò subito la parola. È incredibile perché sono tutti e tre in fuorigioco. È vero che quello a cui va la palla è quello che è meno in fuorigioco, ma è in fuorigioco netto però anche lui, sicché io credo che non alzare la bandiera in un caso del genere sia proprio un errore molto grave, tutto lì. È rimasto similissimo all'episodio di Siena, se non ricordo. Bravo, era bravo. Similissimo. Bravo. La seconda considerazione era proprio sugli errori arbitrali. Mi ha fatto veramente specie, anche a San Siro, l'arbitro stesso, quando io ero a San Siro a vedere Inter-Sampdoria a tagliamento, come quando Ambrosini in elevazione con le mani alzate colpisce il pallone con le mani, l'arbitro non fa una piega. Ed è già ammonito. L'ultima considerazione è che è un paradosso, però da tifoso interista, dopo facendo i complimenti dovuti alla Roma, secondo me l'Inter esce rafforzata da questa sconfitta, perché ha giocato una grandissima partita, soprattutto nel secondo tempo. È vero. E secondo me ne esce rafforzata. Volevo sapere un suo parere, la ringrazio. Cesare, io qui la seguo fino a un certo punto. No, la seguo su Ambrosini e su Tagliavento e me ne dispiace molto, sinceramente, perché credo che Tagliavento quest'anno abbia arbitrato ad alto livello, ma veramente ad alto livello, tante partite assai più difficili di quella di ieri, a cominciare da Inter-Sampdoria. Però veramente ieri sera, tra il rigore regalato e lo sconto successivo, mi è sembrato un po' imbarazzante, sinceramente. No, dicevo, non la seguo sul fatto che l'Inter ne esce rafforzata sul piano della convinzione, però della convinzione delle proprie risorse, però io credo che l'Inter non abbia bisogno di questo, no? Dopo anni di vittorie, cioè non abbia bisogno di una riconferma della propria forza, perché quella la deve dare per presupposta. Credo invece che si sia notevolmente complicata la vita per l'Inter a questo punto, perché non dico con la vittoria che avrebbe chiuso tutto anzitempo, ma semplicemente con un pareggio i quattro punti avrebbero consentito all'Inter di pensare con calma a una tappa dopo l'altra: Coppa, campionato, poi di nuovo Coppa, poi di nuovo campionato, poi campionato, altre due domeniche, poi il presumibile Barcellona piuttosto che l'Arsenal o quello che sarà. Così invece diventa difficile, perché ogni giornata ti giochi tutto. E ho l'impressione che sia molto usurante questo, sicché quel po' di convinzione in più che ti può aver dato, che ripeto, dopo così tanti anni di vittorie relativo, lo paghi in termini di stress, che mi sembra proprio quello che l'Inter sta facendo un po' di fatica a gestire. Angelo chiama dalla provincia di Lucca, buongiorno. Buongiorno, sono Angelo, e premetto che faccio l'arbitro, però sì, io volevo fare una riflessione su quello che è successo sabato, cioè il gol del Netter, viziato da una posizione di punibilità netta, evidente, ok. La partita va avanti, e il risultato è a favore della Roma, tutto tranquillo, finisce la partita, se ne parla così vagamente, però nessun dramma. Mentre la Fiorentina subisce un torto simile, viene giù il mondo, arbitro condannato, assistente condannato, malafede, tutte discussioni giustificate dall'episodio, però ecco la soglia sottile del risultato che condanna un arbitro mentre assolve, certo, cioè, in modo così velato, l'assistente di Roma Inter. Ragionamento, cioè, ineccepibile. Ecco, questa riflessione andrebbe fatta per aumentare un attimino la cultura dello sport in Italia, sì, sì. Perché cioè, dovete capire che un assistente, un arbitro in particolare, è calcolato l'errore umano. Io, la mia opinione è quella che un arbitro può sbagliare quanto un giocatore può sbagliare un calcio di rigore. Sono d'accordo, Angelo, o come una parata, cioè l'errore non dell'arbitro ma dell'assistente sul fuorigioco, sul gol in fuorigioco che dà il pareggio all'Inter, è un errore della stessa gravità di quello che Julio Cesare ha compiuto nel primo tempo con quella papera abbastanza incredibile. Ricordiamoci, scrive Alberto da Biella, che il Milan ottiene storicamente i migliori risultati nelle ultime partite di campionato, quindi non lo escluderei dalla corsa. Lei conferma? No. No, Alberto, almeno mi sembra che il grafico del Milan sia non lasci molti margini di dubbio. Non solo, ma nelle ultime giornate il Milan ha un calendario, dei tre calendari che si prospettano alle tre ancora in corsa, quello nettamente più difficile è quello del Milan, che nelle ultime cinque giornate mi pare abbia le due genovesi, Palermo, la Fiorentina e la Juve. Sono tutte squadre che hanno comunque, per una ragione o per l'altra, hanno obiettivi precisi ancora, avranno quasi certamente obiettivi precisi da inseguire, e quindi sinceramente escluderei. Un altro ascoltatore domanda: ma in caso di arrivo a parità di punti tra tutte e tre le squadre, cosa succede? Succede che vince l'Inter in quel caso, perché scatta la classifica avulsa, e cioè si calcolano non più i risultati ottenuti, i risultati del confronto diretto, e quindi Inter-Roma che avvantaggerebbe la Roma, ma dei confronti diretti, e in questi confronti diretti sarebbe nettamente in testa l'Inter che ha fatto 7 punti, nel senso che ne ha fatti 6 col Milan e 1 con la Roma. La Roma sarebbe seconda con 5, perché ha fatto 4 punti con l'Inter e 1 col Milan, e il Milan avrebbe 4, finirebbe a quota 4 perché ha fatto i 4 punti con la Roma e senza raccogliere nessuno con l'Inter. Siamo alla realtà romanzesca, ma insomma, giusto per curiosità. Michele da Pesaro ritorna su quel discorso di Bettega che avete ascoltato e commenta: in quello che dice Bettega manca il salto concettuale. Lui ragiona nella logica dei tifosi professionisti. Il calcio e il tifo sono invece divertimento, se diventano odio non hanno più diritto di cittadinanza. E Del Piero soprattutto, conclude Michele, avrebbe fatto bene a non dare udienza a quei buffoni, sarebbe stato un segno, occasione persa. Condivido al 99%, alla parola buffoni sostituirei la parola teppisti, approssimando per difetto. Carmine, provincia di Lecco, buongiorno. Pronto, buongiorno Gigi. Buongiorno. Mi concede due piccoli appunti? Certo. Ecco, allora, concordo anch'io con l'ultimo sms che ha letto. Sì. In pieno. Ecco, allora, ieri eravamo allo stadio, finalmente in uno stadio ripulito, con le famiglie e i bambini. Sì. E quella gente lì stia ancora fuori dallo stadio. Noi siamo andati, non abbiamo voltato le spalle alla Juve. Ecco, poi se non sbaglio la Juve sta costruendo la sua nuova casa, che dovrebbe essere pronta dal campionato 2011-2012, se non sbaglio. Sta pensando anche a ripulire la nuova casa, o questa gentaglia ce la riportiamo sempre dietro, nella nuova casa? Questa è un'altra bella domanda, caro Carmine, e io sinceramente condivido lo spirito di questo intervento, perché insieme alla qualità del calcestruzzo comincerei a pensare anche alla qualità degli abitanti di questa nuova casa futura, e cioè al fatto che credo sia indifferibile da parte della Juventus quella di cominciare a fare pulizia. Ora, che dopo una stagione come questa, che dopo tutti gli episodi che sono accaduti, i commenti debbano essere così sfumati come è stato quello di Bettega, oppure che questa gentaglia debba avere udienza dal capitano Del Piero, prima dell'accaduto con poi l'effetto talmente positivo che le parole del Piero evidentemente non servono a nulla, perché l'aggressione a Zebinà è successiva. Beh, questo mi pare che la dica lunga su un altro versante, su un altro fronte che la Juve deve oggettivamente e indifferibilmente aprire se vuole preparare un futuro migliore di quello che sta vivendo, anche da un punto di vista tecnico, e che non c'entra nulla con quest'altro. Condanna degli atti vergognosi e solidarietà a Zebinà e a Seedorf. Questo è l'intervento dell'Associazione Italiana Calciatori per esprimere il sostegno ai due giocatori Juve e Milan colpiti da deprecabili episodi di razzismo. La EC, nel condannare con fermezza tali atti vergognosi, auspica che tutte le componenti del calcio si impegnino con iniziative concrete per combattere queste espressioni di inciviltà provenienti da una minoranza violenta che deve essere messa a tutti i costi, deve essere isolata a tutti i costi e messa a tacere. Iniziative concrete per combattere, per l'appunto, non quelle di Bettega del Piero. Gaetano da Milano, buongiorno. Gigi, buongiorno. Io volevo ricollegarmi ai messaggi precedenti in merito ai fatti successi ieri a Torino, dicendo che quello che lei ha sempre detto, che il tifo è una malattia, è sicuramente vero, che è una gran verità. Io non so dove stia scritto che un giocatore, un capitano di una squadra debba andare a dare delle giustificazioni a dei tifosi o presunti tali. Ieri sono successe delle cose spiacevoli, che è dire poco, è un eufemismo definirle spiacevoli. Io penso, ricollegandomi a un ascoltatore che ieri ha parlato col signor Genta, quasi giustificava dicendo che loro comunque ci mettono del tempo, ci mettono del denaro nel seguire la Juve. Lo investissero altrove, se questo lo prendono a pretesto per poi imporre la loro legge di barbarie dal punto di vista della civiltà e di violenza, no? Le pare? Se non ci fossero più tifosi, probabilmente allo stadio ci sarebbero più spettatori, quindi, e questo sarebbe, diciamo, sarebbe risolto uno dei nostri problemi più grossi del calcio attuale. Gaetano, io uso spesso quell'espressione, il tifo fa male, ma le dirò, però la uso per molto meno rispetto a quello che è accaduto ieri. Cioè, il tifo fa male, mi riferisco al primo messaggio che ho letto, cioè quando uno dice che il primo gol della Roma è irregolare, questo è, secondo me, questa è la sintomatologia da tifo, che fa male. Fa male perché ti porta, perché ti dà l'allucinazione, cioè ti porta o ti costringe a vedere le cose che non esistono, ti aliena in un certo senso. Questo non è il tifo che fa male, invece, quello di ieri a Torino. Questo non è tifo, questo non è calcio, questo non è, c'entra nulla il tifo che fa male con questi. Questi non sono tifosi, questi sono teppisti, delinquenti, chiamiamoli come vogliamo. E che una società come la Juve, dopo tutto questo tempo di ricatti, di cose eccetera, gli debba mandare il capitano e poi ancora stemperare, sinceramente mi sembra abbastanza incredibile. Giampaolo, Milano, buongiorno. Sì, buongiorno signor Ganzini. Io continuo a ribattere su questa storia del tifo, perché ieri non è la prima volta che mi capita di andare a San Siro. Il Milan agevola delle società di calcio di bambini regalando dei biglietti, quindi il primo settore verde di San Siro, primo anello verde, è un settore dedicato ai bambini. La percentuale è un adulto ogni 4 bambini. Allora, non è la prima volta che accade che la palla, quando arriva in curva, qui dove ci sono i bambini, subito c'è il servizio d'ordine che si avventa sui bambini che si vogliono accaparrare il pallone. E ieri non è la prima volta che accade che, quando invece la palla arriva nella curva di fronte dei Commandos Tigre, si prendono il pallone e non c'è nessuno del servizio d'ordine che si azzardi andare a prendere il pallone. Ma perché capisce? Non ci sono. Come siamo messi? Secondo me siamo messi bene, Giampaolo, mi scusi. Dal punto di vista dei bambini siamo messi bene, perché è giusto che ci siano dei rappresentanti del servizio d'ordine che dice: guardate che il pallone serve per giocare sotto, quindi voi avrete degli altri palloni, quando andrete a giocare ve li do io, quello che è un conto. Quindi cominciamo a togliere questo aspetto, no? Perché il bambino, a parte che istintivamente, secondo me, il bambino prende, dà un calcio al pallone e lo rimanda giù dalle gradinate, dalle scale, le chiame come vuole, perché il bambino d'istinto è così. Quindi da un lato non manchiamo di rispetto al bambino, dall'altro è normale che sia così, perché non possono esserci inservienti nelle curve degli ultra. Da quando in qua lei pensa che non ci può essere la polizia, non ci può essere, ripeto, l'inserviente, non ci può essere lo steward, non ci può essere nessun garante? Questi fanno esattamente quello che vogliono da una ventina o una trentina d'anni. Però non mi tiri in questi discorsi, perché per altri 18 minuti e 40 secondi c'è un silenzio politico, no? E questo è un discorso politico, che non vuol dire questa o quell'altra parte. Questo è un discorso politico perché dura da troppo tempo in Italia. Non ne posso parlare perché sennò incappo nelle eccetera eccetera eccetera. Quindi le ripeto, semmai questo discorso lo rinviamo da domani in avanti, quando crede. Marco Ferrara, buongiorno. Buongiorno Garanzini e bentornato. Grazie. Niente, io volevo solo fare una puntualizzazione sul fatto dell'episodio di Zebinà, del Piero. Cioè, non dimentichiamo che anche a Milano c'è stato il tifoso romanista che è stato massacrato con una mazza da baseball. Cioè, io penso che io da tifoso interista, Del Piero, facendo il gesto che ha fatto, ma che forse Del Piero o chiunque altro, ha offeso in fin dei conti noi tifosi che viviamo il calcio ancora come uno sport, come un gioco, come un divertimento. E qui anche la società, cioè Bettega non può, come Bettega o Moratti o chiunque altro, cioè dare corda a questi che lei ha apostrofato teppisti, ma ha ragione, bisognerebbe dirne molto di più pesanti. Sì. Cioè noi io mi sento offeso come tifoso del calcio, non di una squadra. Cioè. Perché come può un capitano di una squadra perdere tempo con questi quattro teppisti, chiamiamoli così, per che li stanno radio. Che li stanno screditando, ne stanno screditando l'immagine complessiva, no, della loro società da mesi, se non da anni, e sono pesantemente recidivi. E invece noi siamo arrivati al punto che Zebinà e Melo devono chiedere scusa perché un giorno hanno mostrato uno delle cinque dita di una mano, no, a quelli che li chiamavano negri di merda, no? Allora loro, avendo perso per un attimo l'autocontrollo, avendo fatto questo gesto, hanno dovuto scusarsi con questa gentaglia, eh? Ma per soprammercato poi è meglio che mandiamo a parlare anche il capitano, perché non si sa mai, perché poi in fondo è sempre bene tenere buoni rapporti con tutti, no? Questa è la logica, e questa però è quella, è la deriva, eh? Paolo Siena, buongiorno. Pronto? Buongiorno Rica. Ah, buongiorno, senta, io devo legare un attimo agli episodi arbitrali. Noi sono tifoso della Fiorentina, sì. Quindi noi un po' quest'anno ci abbiamo avuto a che fare. E niente, volevo dire, io mi sono arrabbiato più di tutti gli avvenimenti che sono successi alla Fiorentina, col rigore non dato al Napoli contro la Fiorentina, che mi è sembrato veramente una presa in giro. E come del resto non è stato dato il rigore ieri contro il Napoli al 44esimo del secondo tempo, che era un rigore, cioè, solare, perché no perché era preceduto da un altro fallo, Paolo, ma comunque va bene così, cioè, se lei lo sa, cioè io non faccio un po' fatica a ricordare i rigori di cui si può discutere su ieri, se lei mi tira fuori i retrodatati, sinceramente è superiore alle mie forze, non è per malanimo, è che proprio non sono in grado di ricordarlo. Un altro messaggio di un biellese, prima mi pare si chiamasse Alberto, questo invece è firmato Luciano, dice: Maldini, se parliamo di bandiere, col piffero sarebbe andato a parlare con quei delinquenti, e Bettega è ridicolo con quelle dichiarazioni. Allora, lasciamo stare il ridicolo, insomma, Bettega secondo me è stato infelice, ecco, mettiamola così. Quello che è certo è che il capitano Maldini si è sempre rifiutato ad avere a che fare con questa gentaglia, di altro color di strisce, ma insomma il genere è quello, e proprio per questo, se ricorda, fu fischiato alla partita d'addio. Può darsi che Del Piero alla partita d'addio, quando accadrà tra tanti anni, me lo auguro, verrà invece applaudito da tutti e quindi anche da quelli. Vogliamo ripassare un pochino di storia? Bene, lo facciamo con l'aiuto, come sempre, di Nicola Filippone. Sembra ieri. 29 marzo 1981. 27esima giornata del campionato di Serie B. Gran colpo del Palermo, che alla favorita si impone sul Milan capolista per 3-1. Un risultato sorprendente, anche perché i rosanero navigano in cattive acque. A trascinarli al successo è uno scatenato Egidio Calloni, il centravanti, che ai tempi del Milan era diventato famoso più per i gol sbagliati che per quelli messi a segno, non si limita a realizzare la classica rete dell'ex, ma firma addirittura una tripletta, consumando così, a distanza di anni, la propria vendetta. Beh, questa era carina effettivamente, perché intanto un Palermo-Milan di Serie B che insomma... visto oggi con una il Milan che il Milan, ma insomma visto oggi con una squadra, sarebbero la quarta contro la terza in classifica oggi, invece allora giocavano in B e non solo, ma Egidio Calloni detto ai tempi lo sciagurato Egidio che castiga il Milan il suo ex Milan sul campo del Palermo. Carina. Ivan da Mantova, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Granzini. Allora io ieri sono stato a Torino, io da Mantova tutte le sante domeniche prendo su il mio mezzo e vado a Torino. Beh, le domeniche dispari mi immagino. E anche quelle pari quando si gioca in trasferta, perché io seguo in casa e fuori. Ah, ecco, quindi però non sempre a Torino. Ok. Non sempre a Torino, però i chilometri che faccio sono parecchi. Io come tifoso moderato mi sento di chiedere ai giocatori l'impegno, perché è quello che è venuto a mancare. Dopo ieri ho sentito tanti discorsi, questione di non andare più allo stadio, non paghi il biglietto, sì è vero, però noi paghiamo l'abbonamento a inizio stagione e quindi a me piacerebbe vedere fruttare il mio abbonamento, almeno dal punto di vista dell'impegno. E poi volevo dare una risposta al ragazzo che è intervenuto prima sulla pulizia della casa che farà la Juve. Io temo proprio che la pulizia della casa verrà fatta, perché basta guardare i prezzi che stanno venendo fuori, la selezione del pubblico si fa anche sulla qualità di persone che poi andrà nella nuova casa. Beh, gli inglesi hanno applicato questa ricetta, io non sinceramente non è che la condivida tantissimo, perché non dovrebbe essere il censo un parametro per selezionare, a parte il fatto di tutta la teppa che gira tra i colletti bianchi, ma qui arriviamo di nuovo vicini al politico, ci sono ancora 10 minuti in cui stare invece lontano da questi argomenti. È un altro argomento di frontiera anche questo, sì, che eventualmente un'altra volta. Da Udine ha chiamato Claudio, buongiorno. Pronto? Sì. Ah, buongiorno Gigi, sono da Udine. Io sono un tifoso interista, non vorrei oggi parlare della partita dell'Inter, perché ne abbiamo già sentite tante, il mio commento non serve. Bravo. Volevo solo far notare questo, ho sentito una notizia ieri allo stadio, fra le tante altre bruttissime, cori razziali, monetine, schiaffi ai giocatori, anche che dei tifosi interisti a Roma abbiano picchiato in un bar una ragazza con una mazza da baseball, l'avevano mandato in fin di vita in ospedale. A Milano credo, non a Roma. A Milano. No, credo dei tifosi interisti comunque. Sì. Siccome io ho 50 anni, mi vergogno di avere come essere paragonato a quei tifosi, vorrei che se ne parlasse, che lei almeno, che è una voce abbastanza libera, lo dica. Non ha detto nessuno questa cosa qua. Guarda, io da voce abbastanza libera... È una cosa vergognosa, no? Sì, io sinceramente... Bisognerebbe dirlo forte, che anche questa società, che io pur apprezzo, prendesse una posizione. Moratti, che è tanto buono, dica qualcosa su queste cose qua. Il nome dell'Inter non può essere, è di tutte le società diciamo importanti e anche meno di tale, non può essere svilito da delinquenti di questo genere. Come si fa a girare con le mazze da baseball a vedere una partita? È una vergogna. È una delle tante vergogne, è una delle tante vergogne di questo povero paese, ma le ripeto, mancano 8 minuti, non mi faccio avere le grane proprio, no? in extremis. Oppure vogliamo scoprire oggi che questo paese non è esattamente il massimo della vivibilità? Io credo che ormai i seggi siano praticamente vuoti, quindi non dovrei essere passibile di arresto immediato, almeno mi auguro. Domenico da Monza, buongiorno. Sì, dottor Garanzini, buongiorno. Dica. Io la chiamo prima per le faccio auguro un ricordo felice di quando scriveva sulla voce di Montanelli, certo. Il giornale che leggevo. Certo. Mi ricordo sia un ricordo felice per me lo era. Per me lo è. Beh, ma anche per me lo è rimasto nel modo più assoluto. L'unica avventura, cioè, quando si arriva alla mia veneranda di avventure professionali ce ne sono state tante, l'unica che seriamente rimpiango è quella, quindi vede che siamo pari. Sì, poi... no, infatti conservo tutte le copie. Al di là di quello, dicevo che a me sembra che i suoi colleghi, soprattutto quelli televisivi, non dico che alimentino quello che succede negli stadi, quello che succede fuori, però ci zuppano il biscotto, come si dice. Vivono più di quello che del calcio giocato, e alla fine lo spazio che si dà alle controversie della moviola, alla violenza negli stadi fuori, al caso Balotelli, diventa più importante di quello che è il calcio giocato, e siamo tutte le settimane a parlare di questo. Beh, questo accade da una trentina d'anni a voler star leggeri, e quindi, sì, e quindi è normale. Aumentano gli interessi e aumenta anche lo spazio aumenta gli interessi sul calcio, anziché aumentare l'interesse verso il calcio giocato, aumenta l'interesse verso questi fatti. E questa è una cosa che, diciamo, mi dà un po' fastidio, cioè vedere anche le telecronache che fanno su Tele Lombardia. Io sono interista, da ragazzo frequento. Sì, però vede, Domenico, non capisco perché farci del male parlandone. Cioè, lei è libero, per carità, di investire anche in quella maniera il suo tempo libero, per l'appunto. Dato che non è prescritto dall'ASL e non viene nemmeno rimborsato, almeno credo, cioè se si faccia del male lei, insomma, ma non coinvolga noi, che sinceramente invece ne facciamo a meno. Se poi lei vuol dire che questo genere di trasmissioni, che ripeto da 30 anni comunque sono la base del modo di parlare di calcio in Italia, non sono esattamente educative da un punto di vista sportivo, beh, insomma, questa è un'opinione, ripeto, non inedita, ecco. Oscar Rimini, buongiorno. Buongiorno, grazie. Dunque, io, sempre rilacciando il mio discorso dei tifosi che abbiamo la puntata avverte oggi, molto spesso abbiamo sentito dire che nelle curve i tifosi fanno sciopero, no, perché la squadra non va bene, eccetera, che poi sono questi famosi teppisti. Siccome non ci sono segnali importanti né da parte di questi teppisti di migliorare la situazione, né da parte della società, delle istituzioni, eccetera, io volevo proporre ai veri tifosi di dire: bene, cominciamo a far basta, smettiamo di andare allo stadio, non facciamo più l'abbonamento e ritorneremo allo stadio nel momento in cui le cose saranno migliorate. A questo punto le società sportive dovranno scegliere: scommettono su quei 4-5 teppisti e lasciano perdere tutto il resto, oppure finalmente si svegliano e dicono: ok, dobbiamo mettere mano qui perché altrimenti non viene più nessuno allo stadio. Ma vede Oscar, io credo di sapere che sappiamo purtroppo che la voce introiti da stadio oggi è talmente leggera rispetto alla voce introiti da diritti TV, che se un giorno le televisioni dicessero non vogliamo più dover inquadrare scene di quel genere, allora un conto, ma finché perdono spettatori ho l'impressione che questo tipo di punizione li condizioni molto poco. Vorrei ringraziare Carmelo Lauricella in regia, Franco Piantalidi in redazione, e soprattutto segnalarvi che tra poco, subito dopo una breve lezione del giornale radio, inizia uno speciale lezioni che andrà avanti fino alle 17 nella sua prima parte, e poi dopo lo spazio tradizionale Focus Economia riprenderà a partire dalle 18. Buon pomeriggio, grazie.